La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qua in questo pomeriggio di mercoledì del 18 maggio, il studio di Milano Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast e vado subito all'argomento del giorno, un argomento che, attenzione, non deve riguardare solo gli addetti ai lavori, noi giornalisti, perché talvolta, non appena una volta ogni X mesi, perché io lo faccio raramente, in cui si parla di informazione, molti di voi ci mandano subito gli sms dicendo ma no, ma questi sono temi autoreferenziali, parlate un pochino delle questioni che ci riguardano. Lo sapete, e anzi ve lo ricordo, l'indirizzo è la versione di Oscar, @radio24.it. Moltissime delle trasmissioni che facciamo derivano esclusivamente invece dalle vostre segnalazioni, quindi fatelo ancora, in particolare per le città in cui si vota al turno amministrativo, segnalateci problemi concreti perché di cui li vogliamo parlare più che perdere tempo a intervistare i candidati, cosa che dobbiamo fare ovviamente in par condicio. Ma detto tutto questo, ogni tanto tocca anche porsi un problema che riguarda l'informazione nel nostro paese. In particolare oggi parliamo del destino che è sospeso sulla testa del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Quindi parliamo del Corriere della Sera, il più grande giornale italiano, la cui storia, la cui importanza non devo naturalmente sottolineare. Come sapete, siamo in questi ultimi giorni a una svolta, forse, dopo anni di distruzione del valore di una eterogenea compagine di soci non editori che hanno realizzato l'esatto opposto di quello che il giornale ha sempre invocato per il paese, cioè trasparenza, efficienza, creazione del valore, eccetera eccetera, realizzando invece una opacissima gestione di distruzione del valore, assunzione negli anni di partecipate all'estero a costi che non stavano né in cielo né in terra, con sospetti anche di interessi di chi ha praticato quelle acquisizioni, cosa che aveva fatto anche in altri gruppi editoriali, compreso in questo, perché stiamo parlando delle stesse persone, tanto per essere chiari. Quindi, come vedete, non ho peli sulla lingua nel giudicare la pessima prova data da RCS come impresa a tutte le grandi imprese editoriali d'Italia, perché si perde il titolo di criticare gli altri quando si gestisce in questo modo. Naturalmente non sono i giornalisti colpevoli, ma così è andata. E dopo un lungo viale di declino, di debiti più volte ricontrattati con le banche, di vendita di immobili, eccetera eccetera, spolpati un po' all'osso, ancora in perdita, non con l'attività del Corriere della Sera ma in tutto il resto del gruppo, dopo aver venduto a Mondadori anche i libri, sapete che l'editore della Sette, Cairo, Urbano Cairo, non solo della Sette ma anche di una catena di giornali ben gestiti, quindi un editore capace di fare la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi, ha lanciato un'offerta carta per carta e ha detto: io sono interessato a questo punto a fare un'impresa multimediale, a mettere insieme oltre alla Sette e alle mie testate anche il Corriere dello Sport e l'importante informazione sportiva che è collegata nel gruppo con la Gazzetta, e quindi a quell'offerta carta per carta è venuto dopo un paio di settimane una risposta coordinata da Mediobanca e che mette insieme azionisti attuali dell'eterogenea compagnia di inefficienti, e cioè Tronchetti Provera, Pirelli, Della Valle, Unipol, eccetera eccetera, li mette insieme però a soldi freschi, quelli di Invest Industrial di Andrea Bonomi. Andrea Bonomi, che è un protagonista della finanza italiana, una presenza oculata in BPM, ci ha provato, i sindacati hanno detto no e così via, e l'offerta è a un valore un pochino più significativo di quello di Cairo, un po', non troppo. La differenza è che però da una parte Cairo ha avuto il sostegno di Intesa, che è la principale banca con cui resta esposto RCS, e Intesa si è scocciato del fatto che i vecchi azionisti, come ovvio, non hanno soldi da metterci, e quindi ha sollecitato un'azionista esterna, e contro Intesa, prima creditrice di RCS, si è mobilitata Mediobanca con alcuni dei vecchi azionisti e Bonomi. L'interrogativo è stato nell'apprendere di questo lancio, di questa iniziativa, ma è una cosa che si ferma qua o serve per capire se dietro Cairo ci sono anche fondi di investimento internazionali? Perché tutti sappiamo che né Pirelli né Della Valle eccetera intendono davvero mettere mano al portafoglio per la loro quota, se si dovesse arrivare al successo poi dell'offerta pubblica d'acquisto anche per cassa lanciata da Bonomi e da loro. Però detto questo, Cairo invece ha detto no, io non dovrei rilanciare, quindi vediamo un pochino. Allora, questi sono i particolari della vicenda, i particolari finanziari per così dire, ma dietro gli interrogativi sono: Che cosa si sta muovendo? Che significato politico ha? Che significato ha in un mondo editoriale in cui c'è stata pochi mesi fa l'intesa che ha fatto convergere la stampa nel grande gruppo CIR De Benedetti, quindi Repubblica Espresso Finegil? Non ha forse un senso maggiore davvero integrare la Sette, quindi una televisione non governativa, diciamo così, innestandola in un gruppo editoriale che da solo zoppica, come tanti zoppicano di gruppi editoriali? Queste e tante altre cose. Allora, sono gli interrogativi che rivolgiamo ai nostri due ospiti di oggi per guardare l'impatto nazionale, cosa cambia l'informazione italiana a seconda che vinca una cordata o un'altra, o magari una terza ancora, vedremo. Sono con noi Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, buongiorno e grazie. Ciao, buongiorno Oscar. E Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. In realtà Stefano Cingolani è un poligrafo che scrive e collabora con moltissime testate. Grazie a te Stefano. Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio. Feltri, voi avete lanciato un tema in questi giorni, cioè avete detto nella realtà c'è anche un aspetto politico. Da una parte con Intesa, quindi con Bazzoli per intenderci, c'è Cairo, l'unica televisione alternativa, veramente indipendente, più indipendente rispetto al blocco del Nazareno filo Renzi. Dall'altra parte ci sono invece gruppi che sono più vicini al Presidente del Consiglio. Ma è una vostra interpretazione un po' forzata o è davvero in gioco anche questo, secondo te, Stefano Feltri? Ma su RCS non si può mai parlare soltanto di logiche economiche e finanziarie, altrimenti ci sarebbero tante opportunità di investimento più semplici e più interessanti. Quindi bisogna sempre sovrapporre i due lati. Uno dice, ma perché una banca d'affari come Mediobanca, un'assicurazione che come UnipolSai, che si è trovata in pancia la partecipazione dopo la fusione con Fondiaria, dovrebbero mettere soldi in un giornale? In fondo perfino la Fiat ha detto che non era più coerente continuare a tenere soldi lì dentro. L'unica spiegazione è che questi azionisti vogliano usare il Corriere per qualcosa di più utile che continuare a perderci i soldi, perché il progetto industriale che motiverebbe l'operazione con Bonomi è sostanzialmente lo stesso che è già in corso, non si percepiscono sostanziali discontinuità, mentre quello di Cairo almeno aveva una prospettiva diversa, che era l'integrazione con la Sette. Allora, se accettiamo questa logica, cioè che RCS ha sempre anche una valenza politica, questo è il momento in cui mettere soldi sul Corriere per pesare in politica è particolarmente vantaggioso, perché è il momento in cui la politica, nello specifico il governo, ha molto bisogno del contesto giusto in vista del referendum. Queste sono valutazioni, come dire, oggettive. Poi è chiaro che non è che noi siamo così ingenui da pensare che allora c'è un complotto per cui Renzi dice a Mediobanca compra il Corriere per fare il giornale del sì. Non è questo lo schema è semplicemente che se la logica con cui si investe sul Corriere è di avere un biglietto da visita, di avere una centralità nel capitalismo di relazione all'italiana, che per quanto si sia molto ristretto comunque ancora c'è, allora ha un senso. Cioè, pensiamo che Mediobanca è sempre stato il regista, il centro di un sistema tra politica e affari, che adesso si è spostato altrove. Adesso c'è la Cassa Depositi e Prestiti, per esempio, al centro, e Mediobanca vive soprattutto di operazioni di finanza straordinaria che sono fatte in gran parte dalle grandi aziende italiane che sono in orbita parapubblica, dall'Eni, l'Enel, eccetera. Quindi tutte queste cose spiegano perché adesso e perché in questo momento. Cairo è un editore che fa soldi con l'editoria, non è uno che viene dal mondo di Berlusconi, quindi non è uno che è completamente estraneo a queste logiche, però è uno che fa solo l'editore e che con la Sette fa solo l'editore televisivo. Quindi Bazzoli e Intesa, investendo Cairo, come dire, nella successione come nucleo forte dell'azionariato del Corriere della Sera, stavano cercando di, come dire, preservare uno schema in cui ci fosse un giornale che rispondeva a un editore invece che a un coacervo di azionisti con interessi particolari volti verso l'editoria, che è la storia recente del Corriere della Sera. E quindi non è che stiamo dicendo il Corriere della Sera andrà molto peggio di come è stato negli ultimi anni, continuerà ad andare in quel modo. Poi quindi dici giustamente... comunque non è che sia un complotto a tavolino o Renzi coordina, però interroghiamoci. Quello che io posso confermare ai nostri ascoltatori è che in effetti alcune pressioni forti ci sono, cioè per esempio recente sviluppo in Confindustria porta gruppi pesanti iscritti pubblici a Confindustria a chiedere che alcuni conduttori non parlino, tra i quali il sottoscritto, perché dicono che sono fuori linea. Questa roba non esisteva prima, no? in questo no, mondo. Certo, quale cioè, sto parlando? Ti sto dicendo che le pressioni ci sono, e come? Perché io le misuro innanzitutto sulla mia pelle. Non lo so, io vedere che a Libero cambia il direttore, perché bisogna fare un direttore appunto, che è diventato il sostenitore adesso del referendum, per ragioni rispettabilissime, sto parlando di Vittorio Feltri, e tatac, e salta il direttore precedente perché è rimasto sulla linea del no, beh, qualche cosa vuol dire. Gli Angelucci non avevano avuto la rata di contributo per Libero, ed ecco che improvvisamente sulla via di Damasco ovviamente si convincono del merito del referendum, o per i soldi, su, non prendiamoci per il sedere, cari ascoltatori, io faccio questo mestiere da troppi anni per dover raccontare palle, scusatemi su queste cose qua. Allora, quello che mi interessa invece capire da Stefano Cingolani, che è un osservatore di lunga data dell'intreccio tra politica, gruppi editoriali e finanza, è che però alcuni finiscono fuori parte in questa storia, perché Mediobanca oramai, che ha perso moltissimo il suo ruolo storico, non è più quella di un tempo, lo sappiamo da tempo, organizza operazioni per amici del governo, in realtà, questo è il punto. Io però mi interrogo su quanto sia chiaro ancora agli stessi soci che ci hanno perso un pacco di quattrini e che hanno un enorme problema di valore di carico ancora dei titoli RCS di cui sono portatori, se gli è chiaro la quantità vera degli errori che hanno commesso, perché io sono convinto di no, parlando con alcuni di loro, che mi dicevano sotto un euro non si parla con nessuno, però io credo che non abbiano proprio capito quanto hanno sbagliato al Corriere. Tu come la pensi, Cingolani? Ma io penso che forse l'hanno capito, ma il problema è che non ci stanno a farsi, come dire, prendere o sottrarre il Corriere della Sera da chi? Da un uomo nuovo, come si dice, come Cairo, un editore, eccetera, oppure da Bazzoli, da Banca Intesa. Io la vedo molto come uno scontro tra due grandi potentati della finanza, con addentellati politici e ricadute politiche, naturalmente. Ricadute però che non mi sono ancora molto chiare. Per esempio, oggi c'è una bellissima intervista a Bazzoli sulla Repubblica. Sì, Vizio Mauro. E ad un certo punto Bazzoli, il quale dice non è ancora finita, quindi è un po' un avvertimento. Sì, anch'io ho colto che c'è questo aspetto, guardate che non... Esatto, aspettate, beh, venerdì c'è in fondo Mediobanca mobilita solo un quinto del capitale attuale, insomma vedremo, però ci sono dei messaggi politici molto chiari. Uno sul referendum, lui dice, beh, questa legge è una brutta riforma, scritta male, ma è meglio che nessuna riforma, e temo che se saltasse diventerebbe impossibile riformare alcunché. Dunque, finora il Corriere della Sera è stato su una posizione critica nei confronti della riforma costituzionale, e mi pare che, almeno giudicando i dibattiti della Sette, mi pare che anche Cairo ospiti soprattutto posizioni spesso molto vicine ai pentastellati, ma insomma 5 Stelle, ma anche molto critiche, molto, diciamo, certo, anche molto radicalmente critiche nei confronti di Renzi e del governo. Quindi noi abbiamo due, diciamo, soggetti, Cairo che è critico del governo e Corriere della Sera che è critico del governo, e abbiamo il burattinaio, insomma il grande stratega Bazzoli, che prende Cairo e dice però bisogna votare sì al referendum, turiamoci il naso, ma questo è nell'interesse del paese. Insomma, allora tutta questa costruzione che ha fatto anche prima Feltri, che fa il Fatto, eccetera, mi sembra un po' strana, un po' curiosa, insomma, cioè Bazzoli mette in campo Cairo con un messaggio filorenziano, insomma. Io, a dire la verità, io sono convinto anch'io che ci sia un po' di forzatura, c'è l'aspetto politico, però parlando con alcuni dei soci storici con cui ho rapporto, io avevo capito che a un certo punto Intesa si era scocciata dal fatto che fossero inerzialmente solo affidati a un piano che è di continuità più efficiente, quello dell'attuale amministratrice delegata, ma che è senza prospettiva per il rientro di chi ha prestato soldi, cioè delle banche. Intesa, di fronte a questo, ha detto vabbè, vi dobbiamo snidare, allora viva Cairo, e questo è, ha rotto il fronte, ha il senso proprio di un recupero, di ripresa di prospettiva strategica. E di fronte a questo, siccome la partita a scacchi è ancora aperta, posso sbagliare, però l'aspetto politico, visto che, ripeto, la politica renziana è affamata di informazione e di influenza di informazione, come non si vedeva da tanti anni. Berlusconi ce lo sognava di usare i membri pubblici di Confindustria per chiedere a noi giornalisti di questo gruppo di non parlare, se lo sognava, cari ascoltatori, capito? Invece quello che avviene. Comunque, siccome, ripeto, c'è anche una questione strategica però che riguarda l'informazione del nostro paese, perché Berlusconi non è più quello di un tempo, la televisione, la Rai si è presa al governo, quindi c'è anche questo secondo aspetto su cui riflettere, che riguarda il futuro dell'interpretazione come gruppo editoriale, oltre che chi lo controlla e che direttore sarà alla testa del Corriere della Sera. Su questo torniamo dopo un minuto di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori, il pomeriggio di questo mercoledì 18 di maggio. Stiamo parlando della contesa che è aperta, Gruppo Cairo da una parte con Intesa, dall'altra Mediobanca con alcuni dei soci storici di RCS, intorno al controllo, con da una parte un'offerta carta per carta, da una parte un'offerta pubblica d'acquisto invece per contanti con un valore un po' superiore sul controllo al Corriere della Sera. Ci siamo posti il problema, c'è sullo sfondo la politica? Sì, c'è, anche se non spiega tutto, di fronte all'inerzia e alla distruzione di valore di una compagine troppo eterogenea di azionisti di RCS da moltissimi anni, al fatto che vecchie intese, vecchi allineamenti, il vecchio ruolo di Mediobanca non c'è più. Bazzoli invece resta protagonista. Stefano Cingolani ci ha ricordato l'intervista che c'è oggi su Repubblica, molto bella da leggere secondo me, con un Bazzoli che dice ancora non è finita, e Stefano Feltri ci ha proposto invece anche la cornice politica. Ma andiamo a un punto, ricomincio da Stefano Feltri. Noi parliamo di queste questioni di fondo, no? La finanza relazionale, la politica e così via. Però poi ci sfugge la questione un po' centrale, cioè qui restiamo sempre indietro nel capire, poi facciamo i pezzi, perché la carta stampata muore, e ci rifugiamo nei big data, queste cose qua che mi fanno un po' venire all'orticaria. Il problema però è quando si tratta di inventarsi cose nuove, mettere insieme e fare sinergia davvero, siamo in un ritardo bestiale, non ti sembra, Stefano Feltri? Ma assolutamente sì, sono problemi che ci poniamo tutti, ce li poniamo anche noi nel nostro piccolo al fatto, però diciamo, io separerei i due piani. C'è un piano che è industriale, il Guardian deve licenziare alcune centinaia di giornalisti perché ha seguito la strategia del diamo tutto gratis a tutti e poi qualche soldo rientrerà, e non ha funzionato. Il Financial Times invece fa soldi vendendo solo i contenuti perché ha prodotti di qualità. Allora, se noi guardiamo l'aspetto industriale, ci può essere una risposta molto semplice, che nell'informazione funziona la logica degli altri mercati: se vendi qualcosa per cui la gente è disposta a pagare sta in piedi, altrimenti no. Questo qualcosa per cui la gente è disposta a pagare è sempre meno un pezzo di carta con scritte sopra delle cose, ed è sempre più un insieme di contenuti, esperienze, eventi dal vivo, contenuti personalizzati, eccetera. Quindi quello è un aspetto molto complesso. Però per stare al tema anche diciamo della puntata, c'è anche un aspetto di che cosa puoi dire, perché non è così scontato che l'aspetto industriale, come dire, non abbia niente a che fare con quello di contenuto. Ah, no. Se uno sta al Corriere della Sera, è molto difficile che ci siano delle inchieste sul sistema bancario italiano, sulla crisi del capitalismo di relazione, nel momento in cui si fa un salotto buono usando un fondo di private equity per mantenere le stesse dinamiche che una volta si facevano con i patti di sindacato. Se uno sta nel nuovo gruppo Espresso Repubblica, con la stampa dentro, che è pieno di bravissimi giornalisti, ma se il tuo editore ha appena negoziato l'uscita dal settore dell'energia con una specie di bancarotta di Sorgenia, sarà molto difficile che sull'energia si possano fare grandi lavori, e neanche sulle banche. Che no, sono no, per carità. Sappiamo tutti che Alessandro Penati andò via dal Corriere dopo aver scritto di Mediobanche Generali, e si fece dare a Repubblica un contratto iperblindato che nessuno ha mai visto nella vita, che nessuno gli poteva neanche una virgola. Sappiamo bene le ragioni per cui Ferruccio De Bortoli è stato, diciamo, prelicenziato con 11 mesi di preavviso. È vero quello che dici. E tu dicevi, citavi prima anche il caso di Libero è la stessa storia, cioè non è una scelta puramente editoriale quella di passare da Maurizio Belpietro a Vittorio Feltri, ma è legata al fatto che Libero è parte di un gruppo, quello degli Angelucci, in cui come te anche io ho lavorato in passato, che ha interessi nel settore della sanità privata e che ha una dipendenza da contributi pubblici, e poi c'è una lunga storia di contenziosi con Palazzo Chigi, la Gcom, eccetera. Quindi quelle dinamiche influenzano pesantemente il tipo di offerta editoriale che si può dare ai propri lettori. Più si restringe il perimetro delle cose che puoi dire liberamente, più è difficile offrire un prodotto interessante. Questo secondo me è una delle cose che ha un po' soffocato l'informazione italiana in questi anni post-berlusconiani. Prima c'era la cappa della politica, adesso c'è la cappa, diciamo, dei conflitti di interesse e del fatto che se una testata di qualunque tipo non ha una sostenibilità economica, non riesce a stare in piedi da sola, sarà sempre ostaggio di qualche interesse particolare. Allora, su questo io ho, insomma, un po' l'esperienza di questi anni è che è raro trovare alla testa dell'azienda editoriale dei manager che abbiano una delega vera a poter capire e condurre e realizzare il cambiamento. Lo sapete, azienda editoriale significa un'infinità di costi fissi troppo elevati da ereditati da modelli del passato nei grandi gruppi editoriali. Questo significa non poter agire davvero nel cambiamento identitario di come si usano le risorse umane nel flusso di notizia. Questo significa l'impossibilità di capire che il problema non è più l'offerta dell'informazione, in un mondo in cui l'informazione è cheap ed è plurima, ce n'è a miliardi di bit di informazione, e organizzarsi la domanda, profilarla, questo lo si può fare solo in maniera multimediale, ma significa una rivoluzione, significa applicare degli algoritmi per cambiare i testi a seconda dell'ora e il tipo di pubblico che hai sul mezzo internet, che rinvii poi approfondimenti sulla carta stampata. Noi siamo vecchi ancora, la grande novità del Corriere sul sito è che mettevano il firewall e facevano pagare un mese fa, cioè robe di 30 anni fa, perdonatemi, sono brutale nei miei giudizi, ma uso questi esempi paradossali per chiedere anche a Stefano Cingolani, che sono molto attento da tempo all'evoluzione di che cos'è l'offerta editoriale, non siamo un po' alla preistoria? Il Corriere della Sera non è il simbolo proprio della preistoria da questo punto di vista? È il simbolo delle classi dirigenti italiane, come dire, un concentrato dell'elite, dell'establishment economico, politico, intellettuale italiano, lo è sempre stato, e in fondo è anche questo il motivo per cui i membri di questo establishment cercano di difenderlo, no? Con questo arrocco che abbiamo visto, che stiamo vedendo in questi giorni, insomma. Cioè una classe dirigente che ha puntato sempre a difendere se stessa e raramente ad aprirsi verso le novità, verso il mondo e verso quello che succede altrove, in sostanza. Per cui noi oggi stiamo scontando esattamente la debolezza strategica di questa classe dirigente, del capitalismo senza capitali, come si dice, del capitalismo relazionale, che ovviamente l'alfiere di questo è anche Bazzori, ritorno all'intervista, oggi lo dice esplicitamente, non che le relazioni non contino, contano in tutto il mondo, contano anche negli Stati Uniti, no? Quindi è evidente, diciamo, però le relazioni sono, quando si avvitano in un enclave, nel club dei soliti noti, allora diventano esattamente negative, insomma, diventano quello che abbiamo visto è diventata la classe dirigente italiana. Ohimè, il Corriere della Sera è così, è questo. E malgrado tutto il rinnovamento auspicato, predetto, e le cui colpe si buttano solo sulla politica, senza capire che in realtà è un intreccio che viene anche dal basso, che spiega lo stesso intreccio deviato che c'è in moltissime banche territoriali tra i rappresentanti delle associazioni di impresa locali, quelli delle professioni, i commercianti, gli artigiani, gli industriali, la piccola impresa, manager bancari, ragazzi, e il Corriere della Sera è diventato questo. Mi dispiace per i grandissimi, tantissimi, bravissimi colleghi che ci sono, però è questa roba qua, e forse bisognava essere più coraggiosi, soprattutto le grandi firme, chi che la pensava in un modo come Mucchetti, che poi è andato in Parlamento, chi la pensava come un altro. Io continuo a dire viva Ferruccio, viva anche l'attuale direttore, però ragazzi bisogna avere un po' di schiena dritta, perdonate, anche farsi licenziare ogni tanto. Io mi sono fatto licenziare gli Agelucci, ho vinto in tribunale, tanto per dirne uno. Voi avete una proprietà molto più solida, ma che ha fatto disastri, però. Ok, continuate sulla 24, appuntamento con me, Alessandro Milano, domani mattina alle 8:15. Attenti a noi due.